YouTube Social Village di Marta Cagnola. Sono le 16:05 minuti in questo momento a Radio 24. Come sempre noi siamo in diretta con RadioTube Social Village e Social Network tra le 16 e le 18. Non ci ferma nessuno, saremo insieme per due ore con un sacco di ospiti. Qualcosa abbiamo già svelato sull'account di Radio 24, c'è già qualche foto che abbiamo postato, soprattutto con una grande ospite che sarà con noi questo pomeriggio e mi rende molto molto molto felice. Ma 349-238-6666 è il numero per i vostri sms e whatsapp, chiocciola Marta Cagnola, il mio account social, Twitter e Instagram. Da cosa partiamo? Io partirei questa settimana dalle serie TV. In tanti sono costretti a stare a casa, in tanti stanno lavorando in smart working in molte regioni d'Italia, si esce un po' meno. Beh, insomma, è anche il momento per guardarsi un po' di serie TV. E quali sono le novità? Beh, io comincerei così. Le mie più sentite condoglianze per tua nonna. Eravamo nello stesso campo. È sopravvissuta a tutto per poi essere uccisa nel suo salotto da un ladro del cazzo. Sembrava che lei lo conoscesse, sembrava così... Personale? Sì. Penso che ogni omicidio sia personale. Sai qual è la migliore vendetta? La vendetta. Tua nonna ti ha protetto da tutto questo. Da che cosa? Nazisti, John. Maledetti nazisti. Di cosa si tratta? Beh, questo trailer è bello tosto. Allora andiamo a sentire quali sono le uscite interessanti del periodo, sia sulle piattaforme sia sulla TV generalista, perché insomma ce n'è da vedere. E ci colleghiamo dunque con un grande amico di RadioTube, con Gianmaria Tamaro. Ciao Gianmaria. Ciao Marta, ciao a tutti. Allora, intanto questa che ci hai segnalato cos'è? Quello che abbiamo sentito è Giancarlo Giannini che doppia Al Pacino in Hunters, che è questa nuova serie di Amazon Prime Video che è arrivata da pochi giorni, che è già disponibile per lo streaming. Ed è una di quelle serie che sta facendo molto discutere sia tra gli appassionati sia tra gli addetti ai lavori, perché poco dopo, diciamo così, il rilascio, diciamo, la pubblicazione su Amazon, c'è stata una polemica con l'Auschwitz Memorial, perché è una serie che parla di olocausto e parla anche di nazisti, una New York degli anni 70, e di un gruppo di ebrei che si mette insieme, gli Hunters del titolo, per dare la caccia a questi nazisti. Il creatore della serie ha subito premesso e anticipato che alcune cose sono chiaramente inventate, un prodotto di finzione pensato per l'intrattenimento. Altre cose però sono abbastanza interessanti e si rifanno abbastanza fedelmente alla nostra realtà. Ed è una di quelle serie che secondo me, a livello di ritmo, di capacità di appassionare lo spettatore, sono tra le migliori, perché ricorda molto il Tarantino di Bastardi senza gloria, per intenderci. E poi ha un signor cast capitanato da Al Pacino, che fa un po', diciamo così, il Virgilio di questo ragazzo interpretato da Logan Lerman, che è un ragazzo orfano che ha appena perso la nonna e deve capire come muoversi in questa New York, diciamo, molto diversa dalla nostra, ma neanche tanto. Beh, interessante, poi con un cast effettivamente significativo. Io sento parlare moltissimo, anzi sento, leggo moltissimi post in questi giorni anche su una nuova uscita di Netflix. Sì, I'm Not Okay With This, che è una serie sempre un po' teen, sempre che racconta una storia di ragazzi, che è stata diretta dallo stesso regista di End of the Fucking World e prodotta dai produttori di Stranger Things. Quindi c'è un po' di entrambe le serie. Io ho visto due o tre puntate ieri sera. È una serie con pochi episodi, cortissimi. Sì, 7 episodi da 20-30 minuti, neanche ci arriva ai 30 minuti. E perché, diciamo, anche lo stesso regista che tra l'altro ho intervistato proprio oggi per la stampa, che racconta questa decisione di approcciare ogni episodio come se fosse un piccolo film, quindi indipendente e guardabile da solo, però poi con il retropensiero di questo è anche cinema, non è solo televisione. La storia è molto molto interessante e si basa su un fumetto, così come si basava su un fumetto di End of the Fucking World di Charles Forsman, che in Italia è pubblicato da 001, ed è la storia di questa ragazza che scopre di avere dei poteri, però i poteri diventano una metafora, un modo per raccontare la crescita, il fatto che lei ha perso da poco il padre, deve affrontare questo lutto e deve anche scoprire se stessa, scoprire la propria il proprio posto nel mondo, insomma è proprio una di quelle coming of age, di serie sulla crescita, che sono molto appassionanti e anche ben costruite, insomma, piene di citazioni. Avendo tu visto i primi episodi, immagino che tu abbia riconosciuto subito Carrie, con lei che corre, certo, piena di certo. Dice molto di quell'immaginario che ci ha abituato, a cui ci ha abituato anche Stranger Things. Devo dire, una cosa che mi ha molto incuriosito è che è una serie senza tempo, cioè non si capisce quando è ambientata, è proprio così, un po' sospesa. Sì, sembra, anche questo è uno degli elementi su cui ha puntato molto, sembra, non si capisce bene se è ambientata negli anni 80. Abbiamo perso Gianmaria? Non sentiamo più Gianmaria Tammaro, accidenti. Allora, intanto lo recuperiamo, stavamo parlando di I'm Not Okay With It, che è una serie di Netflix che è appena stata messa online, della quale si sta parlando tantissimo nei social network. Abbiamo recuperato Gianmaria, eccolo qua. Sì, no, eccoci qua, dicevamo che di... sembra un po' ambientata negli anni 80, ma non si sì, sa. C'è questa sospensione temporale che è stata proprio voluta dagli autori e dai produttori in modo tale che da avvicinare ulteriormente il pubblico, insomma, da non allontanarlo se non si appartiene a quel periodo lì o comunque se non si riconoscono tutti quei riferimenti. C'è questa sospensione temporale che riavvicina un po' tutti. Allora, altre serie da scoprire in questi giorni che effettivamente sono un po' strani, in ogni caso ci viene poca voglia di uscire, anche se dovunque ci troviamo, mettiamola così. Allora, segnalo che lunedì su Rai 1 c'è il finale dell'amica geniale, storia del nuovo cognome, che sta andando benissimo, tra l'altro sta avendo degli ascolti pazzeschi. Penso che sarà un finale che insomma si farà ricordare nella stagione televisiva della Miraglia della Rai, e allo stesso tempo su Sky Atlantic c'è 000. Certo, che secondo me è una delle serie più ambiziose, più grandi mai fatte in Italia. Non penso di esagerare, probabilmente è anche una delle più ambiziose mai fatte al mondo, perché è ambientata in tre continenti, si parlano sei lingue, ci sono più linee temporali che si incrociano, e poi c'è questa voglia di raccontare la cocaina senza però raccontata, cioè concentrandosi su quello che c'è attorno. E il fatto che i primi due episodi siano diretti da Stefano Solima, che è anche il papà, diciamo così, della serialità italiana, lascia ben sperare, insomma, e lo consiglio perché credo assolutamente che sia uno dei migliori prodotti di quest'anno, se non degli ultimi cinque, insomma. Vero, vero. C'è qualcosa che ci siamo un po' persi di vista e che è Better Call Saul. Sì, che è tornata finalmente dopo tanta attesa, è la quinta stagione, la penultima, la sesta sarà l'ultima, e effettivamente in questi primi due episodi che sono disponibili su Netflix segue la programmazione americana della AMC, quindi ogni volta che andrà in onda un episodio in America, il giorno dopo sarà su Netflix, di solito è il lunedì, si concentra un po' sul finale di questa serie. Effettivamente, sottolineavano alcuni critici americani, si sente già un po' quell'aria malinconica di un addio più che di un arrivederci. C'è ovviamente Bob Odenkirk che ritorna nei panni di Saul Goodman, questa volta è letteralmente Saul Goodman, ha lasciato la sua vita da Jimmy McGill e comincia ad avere a che fare con i criminali, quindi è sempre più l'avvocato che abbiamo conosciuto in Breaking Bad. Diciamo che ci stiamo avvicinando proprio al personaggio di Breaking Bad. Sì, oramai c'è una coincidenza effettiva tra quello che è in Breaking Bad e quello che è diventato in Better Call Saul. Ha cambiato anche nome. Il primo episodio, spero di non rivelare niente di incredibile a nessuno, nel primo episodio la prima cosa che ci fanno vedere è lui che cambia nome legalmente. Ecco, e quindi ormai il cerchio si sta chiudendo con questo spin-off e anche prequel di Better Call Saul, quindi di Breaking Bad, e quindi anche per Better Call Saul si intravede la fine. Allora, abbiamo preso un po' di appunti, l'amica geniale che si conclude, Hunters, I'm Not Okay With It, 000, Better Call Saul con un episodio a settimana. Allora, Gianmaria, mi raccomando, tu osserva sempre, perché noi ogni tanto ti chiamiamo in quanto grande amico di RadioTube per suggerirci un po' di novità. Grazie Gianmaria, presto! Grazie a te Marta, a presto! Noi ci ritroviamo tra poco con della musica, vabbè, e che musica, dico solo questo, e che musica! RadioTube Social Village. Niente, qui non succede proprio niente. E intanto il tempo passa e se ne va. Meglio cadere sopra un'isola, un reality che qualche stronzo voterà. Niente, adesso non ricordo niente. Fammi sentire che sapore ha. E la mia testa sul cuscino certe notti, vuoi sapere quanto male fa, male fa, male fa. Male fa, male fa. Non hai mai saputo spezzarmi, travolgermi. Resto qui nel fitto di un bosco e tuo vento non mi piegherà. Qui non succede proprio niente. Qui non succede proprio niente. Oddio, un po' di cose da quel Sanremo sono successe. Rita Pavone, che meraviglia. Grazie, grazie Marta. Benvenuta grazie. A Radio 24. Grazie. Allora, diciamo che non è che sei stata proprio profetessa, perché è successo di tutto. Di da tutto, sì, sì, in realtà è successo di tutto. In realtà erano cose che già stavano accadendo, solo che con me sono esplose. È divertente. Però ti devo dire la verità, io quando sento questa canzone, se non fosse Rita Pavone andrei a comprare il disco. Quando l'ho sentita la prima volta, sai Rita che noi li ascoltiamo, no? Certo. Agli ascoltatori l'ho già raccontato, in una stanza, tutti chiusi, tutte insieme, la prima volta, appena iniziata tutti ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto Perché non ci aspettavamo una cosa del genere, sì. Ci hai voluto un po' spettinare? No, è che in realtà mio figlio Giorgio mi ha riportato le origini, questa è la realtà. Ma cioè, tu cosa hai pensato quando Giorgio te l'ha fatta sentire? Allora, niente, lui scrive delle cose molto belle, ma quasi sempre in inglese, è entrato anche nelle classifiche di BBC Prime. È stato molto interessante il suo lavoro, piccole cose ma importanti. E io continuo a ripetergli, ma perché non mi scrivi qualcosa? Ma dai, ma io ma... sai, in italiano non è il mio forte. Poi invece l'estate scorsa lui mi ha detto, mi ha dato un CD, mi ha detto: senti sta cosa, ho l'impressione che ti piacerà. Mi piacerà, mi è piaciuta subito da morire, perché c'è un ritorno veramente alle mie origini. Le origini, io amavo il rock da ragazzina, sono del 45, erano gli anni 50, sono stati per me importanti. Allora, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent. Sei stata una delle prime e sei stata una delle pochissime poi ad andarci oltreoceano. Sì. Qua forse si sapeva poco. Sì, si sapeva nulla in realtà. Che io ho inciso il mio primo disco all'estero con la Eddie Barclay in francese, ed era un EP con 4 brani, di cui 3 erano nordamericani. Uno era Alla mia età, il mio pezzo Alla mia età, e l'altro era Cuore, che lì si chiamava Cœur, Mon cœur, je t'entends battre. Io mi sono innamorata di quel pezzo, era il primo pezzo che io facevo all'estero e deciso di portarlo in Italia. E trovai invece la RCA che era completamente in disaccordo con noi, perché diceva che il pezzo era troppo adulto, mi avrebbe così alienato le simpatie. Io invece puntai i piedi. Allora mi dissero che era un problema anche editoriale, non ce l'avevano loro, e io scoprì chi aveva i diritti e andai da questo signore, al quale va tutta la mia gratitudine ancora oggi. Andai da lui a Milano nel suo grande ufficio, non lo fece neanche dire buongiorno, e gli dissi: signore, lei mi regala questa canzone, mi piace troppo, vorrei farla anche in italiano. E lui mi rispose: ma con grande piacere. Ed era Ladislao Sugar. Pertanto è stato un bel incontro. Da lì c'è stata poi la Germania, Venice Jung. Io mi sono trovata improvvisamente in classifica in tutte le parti d'Europa, ma anche in Brasile. E allora lì è venuto fuori Ed Sullivan, che ha detto alla RCA Victor: se voi la prendete sotto contratto, io la porto all'Ed Sullivan Show. Ed è stato di parola, e io ho fatto 5 volte l'Ed Sullivan, di cui una ero il terzo nome dopo Duke Ellington e Ella Fitzgerald. 58 anni di successi, ma a un certo punto tu avevi detto addio. Sì, avevo avuto un problema molto grave al tronco comune dell'aorta, 2 bypass sono stati piuttosto pesanti, ma non è stato quello, perché io sono una combattiva, resiliente appunto, sono una che non si fa mai mettere sotto, magari un momento di scoramento, ma poi mi riprendo subito. E che quello che facevo negli ultimi anni sotto contratto, non avevo più come produttore Teddy Reno, non mi piaceva, io ero molto triste, andavo in studio in incidere cercando di dare il meglio di me stessa, perché comunque dovevo salvaguardare la mia dignità di cantante, però triste, già sapendo che sarebbe stato un fiasco. Quando è finito il contratto ho detto: vabbè, si vede che destino, preferisco lasciare delle cose importanti del passato, che sono rimaste appunto delle pietre miliari che ancora cantano. Poi la colpa di Renato Zero. È stato lui il responsabile, al quale va la mia gratitudine immensa, perché lui compiva 60 anni, li faceva a Roma, a Piazza di Siena, erano 8 spettacoli molto importanti. Lui era uno dei miei collettoni, lui ballava con la Bertè. Collettoni e le collettine. E le collettine, sì. Ballava con la Bertè e la Stefania Rotolo, Mita Medici, nei miei spettacoli. Allora lui mi telefonò in Spagna e mi disse: Rita, tu ci devi essere perché fai parte della mia vita. E io gli dissi: guarda Renato, io sono almeno 6 anni che non canto, non sono neanche canto sotto la doccia. Ho detto: vabbè, fammi parlare con i miei figli, vediamo. E i miei figli mi hanno detto: no, è un evento importante, tu ci devi andare. Allora l'ho pregato di non dire nulla a nessuno, di non dire che facevo parte del cast. Sono entrata a schiaffo e cantando con lui un bellissimo duetto, e poi ho fatto Mi Vendo, una versione mia molto strana del suo straordinario brano, e mi sono resa conto che io cantavo. Ed ho pensato e mi sono costruita un disco autoprodotto che è stato Masters, che ha avuto delle recensioni magnifiche, ed è stata una grande gioia per me scoprire che in fondo non è una questione anagrafica. Io dico sempre: sono troppo grande per tornare indietro, ma sono ancora troppo piccola per non sognare abbastanza. Ah, questa me la devo segnare, Rita. Ecco, me la devo segnare perché è verissima. Ti devo chiedere di Sanremo, perché con Sanremo non avevi un rapporto bellissimo, perché? Bellissimo. Diciamo che ha usato un eufemismo. Esatto, in realtà un rapporto orrendo, osceno, perché la prima volta fu nel 69 e io aspettavo mio figlio Alex e ero completamente disinteressata, ma ero passata dalla RCA alla Ricordi all'epoca, e la Ricordi vuole buttarmi subito nel lagone. Ma è andata come andata, sono arrivata settima e bella fatto. Secondo anno ero passata, invece sono tornata alla RCA, e allora niente, mi diedero questa canzone che all'epoca si faceva con la stessa casa discografica con un altro interprete. E la mattina che io feci le prove mi accorsi che l'altro interprete, che avrebbe dovuto aiutarmi, in realtà non mi aiutava per niente, chiamai mio marito e gli disse: domani sera io sono a casa. E si avverò. La terza volta fu nel 72 e lì mi dispiacque molto, perché io avevo un pezzo magnifico di Ruggeri Cini e Pintucci, e si chiamava Amici Mai, infatti l'ho venduto in tutto il mondo, e faceva: prendi la mia mano e dici amici come prima, ma che dici amici, noi non siamo stati mai innamorati, sì, magari amanti, sì. Era un pezzo di una meraviglia che avrebbe avuto bisogno di un ascolto maggiore, invece fuori la prima serata. E allora da lì, negli anni, qualcosa ho mandato, ho visto che c'era difficoltà e mi sono detto: chi non mi vuole non mi merita. Quest'anno invece ho detto: secondo me la canzone è giusta, poi se non viene presa io la faccio per l'estate, e l'ho mandata. Poi ho visto che non c'ero, ho detto: vabbè, sì, per la prima lista che era stata così un po' trafugata, vabbè, ecco, sì. Ho detto: vabbè, non sono piaciuto, ci saranno state altre canzoni, non me ne sono fatto una malattia. Due giorni prima dell'Epifania, 10:20 di sera, io ricevo una telefonata e vedo Ama. Ho pensato che volesse scusarsi. Non faccio neanche tempo a dire: ciao Ama, che mi dice: tu sicuramente mi avrai odiato. Ho detto: no Ama, io ti conosco, sei una persona deliziosa, vuol dire che hai trovato delle cose migliori, ma tu ci sei. Tra poco mi attacco il muro, perché ero col telefono. Ci sono? Dice: sì, perché io ho visto che c'era questo spoiler, ho capito che qualcosa non andava, due canzoni ho tenuto da parte, le ho messe sotto una campana di vetro, solo le persone di fiducia lo sapevano, e tu ci sei, pertanto guarda, non dire niente a nessuno, ti verrà a prendere una macchina, ma spiegato tutto quello che dovevo fare, e niente, sono partita. E così è stato, io mi sono divertita e ho goduto di quei giorni, anche se ho fatto le ore piccole. Vabbè, non si dormiva mai, mai. Il venerdì io ho fatto dalle 10 alle 19 televisioni, interviste, fotografie, tutte. Quando ho saputo che cantavo per 20esimo, ho fatto i calcoli e canterei verso le 2, ho detto: allora io vado a dormire, chiamatemi alle 10:30. 10:30, così alle 11:30 avevo il trucco, il tempo che si scalda un po' la voce, un goccino di vodka così si scalda prima, e allora niente, ho cantato tranquillamente, non sospettando che poi sarebbe successo quello che è successo, perché quando io sono entrato ho detto: mi scappa da ridere, niente, qui non succede proprio. Ah, perché è vero, tu eri lì in zona Bugo Morgan. No, ero dopo di loro. Ah, ma pronto, ho visto tutta la litigata. Oh. E loro che mi dicevano, questi qua, lei non si muova perché se non troviamo Bugo deve cantare subito. Oh. Era una cosa incredibile. Tanto l'ho vissuto quel momento, l'ho vissuto. Mamma mia, chissà che poi in quel momento tu sei concentrata sul tuo e ti succedono quello che ti dico: non vada via, non si muova. Io infatti ho risposto: ma chi è che si muove? Io non scappo. Chi è che si muove? Beh, ci vuole il sangue freddo di tanti anni di carriera per non rimanere. Sì, certo, beh, un po' sconcertati sì. Perché non sai bene quello che anche perché in quel momento tutta la sala stampa era in subbuglio. Sì, qualcosa accadendo alla grande, ma non è importanza. Io sono andata per il mio, ho preso la mia strada come niente fosse. Sapevi anche di avere qualche pregiudizio che ti accompagnava, però io non ti ho visto toccata da questo. Perché le falsità non mi toccano per niente. Le falsità, le cose cattive, le cose dette con cattiveria, le invenzioni per danneggiare un artista proprio il giorno che deve debuttare dopo 48 anni, è una cosa che dici: vabbè, è vomitevole, basta, ma te la toglie da addosso come la polvere. Rita, adesso Rarità, c'è questo album doppio con un sacco di cose che peraltro a me hanno colpito particolarmente. C'è questo pezzo che avevi fatto con Giovanni Nuti, con il pezzo dell'Alda Merini. Ricordo quel concerto bellissimo. Ah, quel pezzo è bellissimo, sì. Poi ci sono personaggi che si meriterebbero molto di più, come Dario Gai. Dario Gai è un grande amico da una vita, lo conosco da ragazzino, è uscito dalla festa di Desconosciuti come un amico che c'è qui, diciamolo, Andro è una persona deliziosa. Io dico sempre, non, tu puoi dare una piccola mano a qualcuno, ma se dietro non c'è talento, non fai nulla. E Andro ha un talento incredibile. Sono molto felice di averlo ritrovato qua, perché è una persona deliziosa. Noi abbiamo fatto delle scoperte durante gli anni, e questo disco io l'ho enumerato come fosse un gioielliere, nel senso che parto dai Diamanti, che sono le canzoni che sono arrivate in vetta alle classifiche sia italiane che estere. Poi ci sono le canzoni che io considero le occasioni perdute, nel senso che quando facevi un LP dovevi fare 12 brani e non potevi metterne di più, però se ne facevano 16, 18 delle volte, no? E molti di questi brani, proprio quelli che piacevano a me, e ci sono dei brani bellissimi. E poi ci sta un incontro magnifico nei duetti, beh, quello che forse è il primo della sua vita, quello con Lucio Dalla. E quello è stato entusiasmante, perché io stavo girando questo film, cioè stavamo mettendo giù le basi per questo film, che era un film musicale con Terence Hill, e niente, si chiamava Little Little West, ed era veramente un film molto divertente. E quando Melis, il direttore della RCA, mi disse: c'è un ragazzo che ha desiderio di cantare una cosa con te, di lavorare con te in questo film. E questo era Lucio Dalla. E c'è questo pirulì pirulà, che sembra una stupidaggine, che è stata scritta da lui, ma che in realtà è un pezzo di grande grinta. Rita, sono onorata di averti avuto a Radio 24, perché ma io sono sei felice. Un vulcano di cose belle da tirare fuori, e niente, io aspetto i live, aspetto le altre rarità, perché secondo me qua ci sono dei cassetti da aprire che non posso neanche immaginare quante cose belle ci sono. Grazie, grazie a te Marta, grazie a tutti i tuoi ascoltatori, grazie mille per l'invito. Yourself. Beh, sono tante le chicche di Rita Pavone in questo rarità. Grazie Rita di essere stata con noi. Noi ci ritroviamo tra poco, perché siamo sempre in diretta con Radio. Radio Tube Social Village. Ed eccoci ancora insieme. Nella prima mezz'ora abbiamo parlato delle grandi serie che stanno uscendo in questo periodo, che sono uscite in questo periodo, insomma, serie televisive da non perdere, soprattutto in questo periodo in cui, ahi noi, abbiamo poca voglia di uscire di casa, oppure proprio non possiamo uscire di casa. E poi ci è venuta a trovare, beh, una forza della natura, che è Rita Pavone. Io sono veramente molto, molto, molto, molto contenta. Adesso però continuiamo a scoprire un po' che cosa ci offrono in particolare le varie piattaforme, perché se c'è un genere di cui io sono particolarmente appassionata è il documentario. We stand here today with a plant that's closing, but I'm extremely proud of the people that work in this plant here. For a year and a half I didn't have anything. We lost our home, we lost a vehicle. I have struggled to get back to middle class again. This is a historic project that is going to help grow this community, give people jobs, and give a future to your kids and my kids. You never give up on the American dream. To me, that would be un-American. Allora, questo è uno dei documentari che ci ha già segnalato un nostro grande amico di RadioTube, che oggi chiamiamo per sapere un po' cosa c'è da non perdere in fatto di documentari che piacciono sempre di più, perché sono davvero qualcosa di avvincente oltre che di estremamente informativo. E diamo il benvenuto, anzi il bentornato, a Mattia Carzaniga. Ciao Mattia. Ciao a tutti, buongiorno. Mattia, cos'era questo estratto? Questo estratto è dal film American Factory, che in italiano si chiama Made in USA, una fabbrica in Ohio, sottotitolo, che è, fatto curioso, come se fun fact, il primo film prodotto da Barack e Michelle Obama con la loro Higher Film, il film che ha vinto quest'anno come miglior documentario agli Oscar, quindi insomma un esordio da produttori di gran lusso, e secondo me un film che in questo momento, insomma, tra paura e ironia si sente anche spesso una parola, che è globalizzazione, rispetto allo scenario che abbiamo di fronte, e che racconta molto bene, appunto, questo, descrive molto bene questo, questo tema, perché parla di una fabbrica in Ohio, appunto, che fallisce ed è costretta alla chiusura e che viene in qualche modo salvata da un colosso cinese che porta i suoi operai, ma salva anche, appunto, questa comunità di una piccola provincia americana legata attorno alla fabbrica, e la fa in qualche modo sopravvivere, con però anche tutto il, lo scontro di cultura, idea del lavoro che ne consegue, anche insomma, l'idea della società che ne consegue. E secondo me è interessante per fare un po' il punto su un argomento che, insomma, a cui siamo di fronte in questi giorni. Per tante ragioni, in effetti, e questo è un punto di vista estremamente interessante. Ci sono anche dei documentari che raccontano un po' la politica. Sì, allora, questo, se noi apriamo Netflix in questo momento, ecco, volevo dire, American Factory, Made in USA, è su Netflix, quindi si trova con grande facilità, è uno dei titoli di punta del momento, anche insomma, dopo gli Oscar lo stanno molto lanciando, mai quanto il titolo che l'algoritmo ci propone in continuazione, che è Pandemia Globale. Sì, devo dire che a me è un po' scomparso, forse perché ha capito. Io non ho ancora avuto cuore di guardarlo. Nemmeno io. Forse da me è un po' scomparso perché forse l'algoritmo ha capito che io distolgo proprio lo sguardo. Per il momento sicuramente lo guarderò, ma non è il momento per me per guardare Pandemia Globale. Politica e globalizzazione ancora. Mi riallaccio al discorso di Made in USA con un documentario che invece è disponibile su Prime Video, che è la piattaforma dei clienti di Amazon Prime, e si chiama One Child Nation, regista cinese che riflette in modo anche un po' autobiografico sulla cosiddetta politica del figlio unico, che in Cina è durata per quasi 40 anni, hanno smesso, diciamo, di costringere le famiglie al figlio unico, appunto, pochi anni fa, nel 2015, leggevo prima. Anche questo, uno sguardo su un paese che ci sembra lontano, complicato, però insomma, molto interessante, e anche questo, in termini di politica e globalizzazione, è uno sguardo che in questo momento, insomma, è utile dare. Ancora politica invece e ancora Netflix, altro titolo candidato agli Oscar quest'anno, si chiama Democrazia al limite, e anche questo si lega in qualche modo al film One Child Nation, perché l'ha diretto una donna, si chiama Petra Costa, e racconta sia la sua famiglia, i suoi genitori sono una famiglia brasiliana, erano militanti contro la dittatura fino agli anni 80. Hanno visto arrivare la democrazia quando la regista era piccolina, e in realtà il film però racconta il fallimento eterno della democrazia in Brasile, da Lula a tutti, insomma, i tentativi che sono stati fatti, e la chiave e la tesi poi del documentario è forse il nostro paese è destinato alla dittatura, comunque a un potere che non è mai democratico, ma che in qualche modo è sempre forzato, è sempre corrotto. Allora, poi c'è un documentario che anche lì ogni tanto mi appare nella home page di Netflix, che ha un titolo molto carino, ma che è un po', insomma, non tratta di un argomento carino come potrebbe suggerire Giù le mani dai gatti. Sembrerebbe. Giù le mani dai gatti è uno dei cosiddetti true crime che su Netflix, un po' da Making a Murderer in poi, sono diventati un filone molto fortunato, anche perché ti tengono proprio incollato. Questo ha il vantaggio di essere breve, sono tre puntate molto veloci, molto avvincenti, perché appunto Giù le mani dai gatti, tutto nasce da un gruppo di gattari che su Facebook vedono condividere un video di violenza, un atto di violenza su dei poveri gattini, e iniziano a indagare su, insomma, chi ha prodotto questo video, chi ha postato questo video, che cosa c'è dietro, e scoprono che in realtà, senza spoilerare troppo, gli atti di violenza, diciamo così, non riguardano solo i poveri micini, ma si nasconde tutta una rete proprio da giallo ben più ampia e preoccupante. Quindi sì, dietro questo titolo apparentemente così da appunto gattini sui social si nasconde uno di questi documentari, piccole serie di criminali, molto avvincente, molto divertente. Queste insomma sono appunto tre puntate in poche ore, una domenica pomeriggio. Si guardano proprio. Sì, ecco, non una domenica pomeriggio di relax, nel senso che dietro c'è proprio un vero. Sì, hai detto true crime, quindi una storia vera e un vero assassino. Sì, come storia vera, non assassino, però figura molto controversa, è il signor Bikram, quello del metodo yoga famoso. Ah, certo. Il documentario si chiama Bikram. Credo sottotitolo Guru dello Yoga, Predatore Sessuale, una cosa simile, perché fu recente accusato di molestie da parte di molte donne che frequentavano i suoi workshop, i suoi corsi di yoga. È un metodo molto, molto famoso e soprattutto con testimonial di lusso, un po' il metodo delle celebrity in America, il metodo Bikram. E quindi il documentario indaga un po' su questa figura che sì, è stato appunto un innovatore dello yoga, anche se c'è chi sostiene che abbia semplicemente rubato il metodo ad altri maestri indiani, quindi che non si sia inventato niente in realtà, ma poi anche processato e insomma con un lato oscuro che di questi tempi di dibattito su molestie, femminismo, sessismo è anche all'ordine del giorno. Altra storia, questo è un film, quindi dura un paio d'ore neanche, che racconta una figura così che c'è un po' lontana e che è interessante scoprire nei lati sia interessanti sia divertenti che appunto un po' più dark. Anche questo un film da festival, molti arrivano da Toronto, molti arrivano dal Sundance, quindi magari ne sentiamo parlare o ne leggiamo in rete quando arrivano nei festival, però poi fortunatamente li vediamo su qualche piattaforma perché spesso non arrivano al cinema. Sì, devo dire che questo insomma sulla parte documentari delle varie piattaforme è in crescita, anche perché ci si è accorti che è un luogo in cui più facilmente hanno distribuzione storie anche che sembrano apparentemente locali, invece hanno una circolazione davvero molto più ampia. Il caso del film appunto sui governi brasiliani o sulle politiche cinesi, ci sembrano delle cose, forse una volta le avremmo letti su approfondimenti giornalistici, oggi che ahimè i giornali vendono molto meno, lo diciamo insomma da gente del settore. Non dico che siano arrivati nuovi giornali, però insomma le piattaforme sono anche un po' dei magazine in cui una volta sfoglia e scopre delle storie che ha voglia di ascoltare, sentire, guardare. E poi, come al solito, cominci a guardarne uno e poi poco alla volta ti riconoscono e ti consigliano. A me consigliano sempre documentari con donne protagoniste, serie con donne protagoniste, non so come mai, si vede che sono molto affezionata senza accorgermene ai personaggi femminili. Così, allora, se uno si mette a guardare Bikram, sicuramente gli verrà suggerito, e questo è un altro consiglio, un film di qualche anno fa, un documentario, serie documentario di 2-3 anni fa, che è Wild Wild Country, su Osho, che è un'altra figura, certo, mitica, che fece, questo è un po' tra Bikram e la fabbrica in Ohio, perché Osho, inseguito da problemi fiscali e altre insomma vicende poco pulite in patria, in India, fuggì in Oregon, trovò un luogo qualunque nel mondo che corrispondeva a una serie di requisiti, però anche un certo isolamento, e spostò la sua comunità negli Stati Uniti, anche lì con un grande clash culturale, sociale. È molto divertente, è molto, lì davvero non smetteresti mai, e sulla carta uno dice Osho tra gli Stati Uniti, che mai mi potrà importare, e invece quello è un altro wild country, un titolo che davvero diventa addictive, come si dice in gergo, ma nel giro proprio di una mezz'ora da che lo guardi non smetteresti più. Sono tutti molto belli, abbiamo davanti un sabato sera, una domenica, con almeno da queste parti il tempo non sarà favorevole, perché il meteo ci ha parlato di tempo poco primaverile. Dunque abbiamo anche una lista di documentari da scoprire. Grazie a Mattia Carzaniga. Mattia, ti aspettiamo presto. Grazie a voi, come sempre. Ciao Mattia, grazie, presto. Marta, ciao. Viabilità, poi saremo ancora insieme per parlare di una serie, di un fenomeno di costume, di un grande appuntamento della televisione italiana che sta per continuare. Va bene, parliamo tra poco. Radio Tube Social Village. E siamo ancora insieme per l'ultimo spicchietto di questo nostro RadioTube Social Village. C'è un'ascoltatrice che ci chiede, allora, per chi come me è poco pratico di queste storie, ci puoi dire dove possiamo vedere queste belle cose, ci scrive Maria. Allora, i documentari di cui abbiamo parlato erano in gran parte su Amazon, tranne, come ci ha detto Mattia Carzaniga, One Child Nation, che è sulla piattaforma Amazon Prime Video. È più facile trovarli su queste piattaforme proprio perché hanno delle sezioni dedicate. Poi certo passano spesso anche in TV, però lì è più facile segnalarli perché si trovano appunto in ogni momento per chi avesse la piattaforma a disposizione. Devo dirti che ormai i nostri ascoltatori sono molto più esperti di noi in fatto di delle cose che si possono trovare sulle piattaforme, ma anche sulla TV generalista, perché è quasi il momento di un grande ritorno, ma un ritorno un po' particolare. Che c'è, Caterina? Un tale Bufala e Ceci vino ora per vossia. Bufala e Ceci? E che è, una pizza? Commissario, la vittima? Una picciotta di 27 anni che travagliava qui all'archivio. Agata era come una sorella per me. Lei dov'era ieri tra le 12 e le 2? Non sono un assassino. Quando vi siete conosciuti? 2 anni fa. Minchia, degli sbirri di razza come a voi risolveranno il caso nel giro di poche ore. Beh, ovviamente era il commissario Montalbano. Salvo amato, Livia mia, intanto è questo episodio che verrà prorogato al cinema fino al 4 marzo, perché c'è stata una proiezione speciale in questi giorni al cinema, ma verrà prorogata proprio perché in effetti, come sappiamo, le uscite cinematografiche hanno subito un rallentamento, molte uscite sono state cancellate o posticipate. Dunque, almeno per quanto riguarda questo commissario Montalbano, lo potremo trovare intanto ancora al cinema, ma prestissimo su Rai 1. Sarà una serie un po' particolare, sarà una stagione un po' particolare, perché molte cose purtroppo sono cambiate, perché è mancato Andrea Camilleri, ma anche il regista storico del commissario Montalbano in televisione. Allora ne parliamo con un altro carissimo amico di RadioTube che sono contentissima di ritrovare dalle colonne di Repubblica, Antonio Di Pollina. Ciao Antonio! Ciao, buongiorno, ciao, ciao. Allora, effettivamente è un ritorno un po' particolare questo di Montalbano adesso, in un momento in cui, chissà, saranno gli ultimi, ce ne saranno ancora. Ma guarda, quando se n'è andato Andrea Camilleri, io mi era successo di scrivere una cosa come in realtà Montalbano non finirà mai, ma avevo soprattutto in mente non so, la fortuna che hanno ancora le repliche, per esempio, per cui basta cioè due episodi inediti e le repliche a stagione che vanno in questo modo, che raccolgono comunque ascolti clamorosi, e immediatamente basta andare su qualsiasi social e c'è scritto me lo ricordavo pressoché tutto, ma me lo sarei rivisto in ogni caso, cioè ecco, fino a che il sentiment, diciamo, rimane questo, mi era venuto da scrivere che Montalbano non finirà mai. Adesso devo dire che vedendo il primo che ho visto di questi due inediti e soprattutto sentendo Zingaretti e gli altri della strepitosa banda che hanno messo in piedi in questi anni questa operazione assolutamente clamorosa e di enorme successo, qualche dubbio che ci vorrà un po' di tempo, ma che si stia andando verso un naturale finale. Mi è un po' venuto i toni di Zingaretti medesimo, che è passato in regia, non dimentichiamo che oltre a Camilleri e a Sironi che hai citato, se n'è andato anche lo scenografo Luciano Riccieri, che era il proprio principale da pochi giorni, proprio da pochi giorni. Sì. Esattamente, che è quello che ha contribuiva con questi appunto scenari incredibili della storia, avvantaggiato dalle bellezze naturali del luogo, e quindi, come dire, lì si è un po' sparso un minimo di malinconia, un minimo di senso del gran finale, e quindi tutti dicono ci penseremo. Dopodiché si torna in TV con due episodi nuovi, probabilmente si sale, visto che adesso si sta molto più in casa, anche forse oltre i 10 milioni e così via, e poi bisognerà riconsiderare tutto. Però che sia una edizione, un ritorno molto particolare, come dicevi, su questo non c'è alcun dubbio. C'è molta attesa. Allora, dove eravamo rimasti? Perché abbiamo visto tantissime volte Montalbano, ma in realtà non ci sono centinaia di episodi di Montalbano, la sensazione è quella, ma in realtà sono state tantissime le repliche. Sono state tantissime le repliche, e soprattutto a un certo punto, visto che non c'erano, appunto, come dicevi tu, abbastanza libri lunghi da portare, con delle storie che si dispiegavano molto bene nella durata del film TV, si sono cominciati a fare interi episodi basandosi anche sui racconti brevi di Andrea Camilleri. Quindi da questo punto di vista qualcosa c'è ancora. Poi si sa che ci sarà un grande inedito che ancora deve uscire e che probabilmente che Camilleri aveva lasciato e che sancirà davvero l'uscita di scena definitiva del commissario. Però, per esempio, l'ultimo libro che è uscito e che si chiama Il cuoco dell'Alcione non è sarà in lavorazione e quindi se ne parlerà ancora il prossimo anno. Per un po' di tempo, grazie anche poi al fatto che partiranno le famose repliche, per un po' di tempo ancora stiamo tranquilli. Dobbiamo solo prendere atto che è iniziata una sorta di Sunset Boulevard da un certo punto di vista. Due episodi che verranno mandati in onda adesso a marzo, ma Luca Zingaretti ha detto che comunque c'è già un terzo episodio che verrà mandato in onda nel 2021. Sì, ce n'è già uno e poi ci sarà ancora, che verrà molto probabilmente abbinato, se ho ben capito, al cuoco famoso, che era già un racconto abbastanza strano che Camilleri aveva scritto su commissione di cose americane, quindi abbastanza diverso da tutto il resto, e che probabilmente sarà un unicum. Di questi due episodi, insisto, io ho visto il primo, devo dire che tendo ad aspettarmi molto di più dal secondo, che è tratto da una delle storie che mi avevano colpito di più in assoluto, la storia basata su fotografie e brevi video dello stesso pezzo di muro molti anni fa, che si ripresentano e che disegnano una scena di un delitto d'epoca, cioè un ennesimo colpo di genio di Camilleri, che probabilmente sarà reso bene in questa seconda puntata che vedremo appunto dopo Salvo mio, Livia mia, che insisto ho visto e che è un po' di maniera, francamente, rispetto al solito. Si comincia anche ad avvertire un po' dentro, un po' di atto dovuto di cose di un lavoro da mettere in piedi per forza di cose, e in cui qualcosa ha iniziato a inclinarsi. Diciamo che mi aspetto di più dal secondo episodio, dopodiché il pubblico si disinteresserà completamente di quello che penso io del primo episodio, e sono tutti lì siamo tutti qui ad aspettare con i numeri consueti. Beh, numeri consueti che non, forse saranno ancora più massicci di quelli che eravamo abituati a vedere, se ancora questo è possibile, perché ormai i record erano stati battuti tutti. Forse la partecipazione emotiva seguita alla perdita soprattutto di Andrea Camilleri creerà ancora più attesa. Sì, chiaramente sì, ci sarà. Tieni conto che, non lo so, è una serie in cui milioni di spettatori hanno vissuto quasi come un lutto molto vicino alla scomparsa di Perracchio, dell'attore che faceva l'anatomopatologo Burbero e Goloso, e cioè, basta anche lì farsi un giro sui social e si leggevano cose tipo è come se ne fosse andato un parente quasi, quindi Montalbano negli anni, nei decenni anzi a questo punto, perché siamo a 20 anni di trasmissione, ha creato un impatto, un'empatia come questa, chiaramente. Grazie ad Antonio Di Pollina. Quindi ancora questo fine settimana fino al 4 marzo ci sarà questo Montalbano al cinema, come proiezione speciale al cinema, prolungato proprio perché appunto le programmazioni di cinema hanno subito inevitabilmente qualche modifica, ma poi lo aspettiamo in televisione. Grazie ad Antonio Di Pollina per essere stato con noi. A presto, Antonio. Ciao. Un abbraccio ad Antonio Di Pollina. Noi invece ci ritroviamo tra poco perché c'è il giornale radio delle 17 e poi saremo ancora insieme con la seconda ora di RadioTube, Social Network.